Io e Matteo, di Ernesto Granese. Episodio numero 52. Milano, 1974, rivoluzione, rock e rinascita. Milano, anni 70. I licei e le aule universitarie ribollono di idee. Le strade pulsano di manifestazioni e il parco Lambro si trasforma nella Woodstock italiana, un vortice di musica e libertà dove tutto sembra possibile. È qui che Mauro e Matteo, i protagonisti di questa storia, incontrano Enrica, occhi profondi e anima inquieta, figura magnetica che trascina entrambi in un viaggio vertiginoso attraverso i chiaroscuri della controcultura. Insieme sfidano il sistema e il mondo della scuola, che percepiscono come gabbie. Danno voce ai loro ideali attraverso le frequenze delle radio libere e si perdono nelle note ribelli di un rock che non cerca compromessi. Ma mentre Mauro e Matteo cercano nelle rivolte studentesche un senso di appartenenza, Enrica scivola lentamente verso un'altra forma di ribellione, quella dell'eroina. Sirena letale che promette paradisi artificiali e consegna inferni reali. La loro è una storia d'amore che si intreccia con la grande storia di quegli anni, tra i manifesti di una nuova libertà sessuale e concerti che si trasformano in occasioni di scontro ideologico, preludio agli anni di piombo. Un affresco generazionale che cattura l'irripetibile intensità di un decennio in cui tutto, dalla musica alla politica, dall'amore alla disillusione, veniva vissuto senza compromessi. E infine il sorprendente percorso di rinascita di Enrica, testimonianza che anche dalle cadute più rovinose può nascere una nuova alba. La controcultura. Passavano inesorabili le settimane, i mesi e gli anni, ma ai nostri occhi l'istituzione scolastica rimaneva immobile, cristallizzata in un sistema che appariva anacronistico con la sua rigida gerarchia, le sue regole ottuse e i suoi metodi obsoleti. Noi studenti, dai più radicali come Matteo ai più moderati come me, sognavamo una profonda metamorfosi di quel mondo. La nostra richiesta di cambiamento si condensava in uno slogan semplice e immediato: tutto e subito. Con la tipica arroganza giovanile, armati di forte spirito critico ma scarsa tolleranza, eravamo convinti che l'intera società andasse cambiata proprio a partire dalle fondamenta del sistema educativo. Credevamo fermamente che la scuola rappresentasse il laboratorio ideale per sperimentare modelli sociali più giusti e liberi. Guardavamo con pregiudiziale ostilità alle proposte di riforma provenienti dalla Democrazia Cristiana, il partito eternamente al governo. Anche quando contenevano elementi condivisibili, il nostro scetticismo ideologico ci impediva di valutarle con obiettività. Eravamo prigionieri di un paradigma mentale che ci portava a rifiutare automaticamente qualsiasi iniziativa proveniente dall'alto. Questa diffidenza nasceva dalla convinzione che le politiche educative governative fossero viziate da una fondamentale indifferenza verso le nostre rivendicazioni e bisogni. Non ci chiedevamo mai, però, se fosse legittimo pretendere che il sistema si adattasse alle richieste di adolescenti ribelli e inesperti. Il sistema scolastico dell'epoca, incluso il nostro istituto, non offriva secondo noi abbastanza di ciò che ritenevamo davvero importante. Personalmente avrei eliminato completamente il latino per fare spazio a materie che consideravo più consone al nostro indirizzo educativo: pedagogia, didattica, psicologia, filosofia. Volevo una scuola più pratica e meno classica, all'inglese, cioè più orientata verso il futuro e meno ancorata al passato. Bisogna dire che, nonostante fossimo incostanti, polemici e indisciplinati, noi studenti eravamo mossi da una curiosità insaziabile. La nostra sete di conoscenza abbracciava ogni campo del sapere. Divoravamo qualsiasi testo ci capitasse tra le mani, talvolta superficialmente, altre volte con tutta la passione e l'entusiasmo dei nostri 18 anni. Era una fame intellettuale confusa, ma autentica, disorganizzata, ma intensa. Io ero profondamente influenzato dalla controcultura, quel movimento poliedrico e multiforme che stava rivoluzionando il pensiero giovanile in tutto l'Occidente. Su questo punto io e Matteo eravamo perfettamente in sintonia. Ci affascinavano le teorie alternative, i movimenti underground, le sperimentazioni artistiche e sociali che sfidavano l'establishment. La controcultura italiana di quegli anni era un fenomeno complesso e contraddittorio. Riviste come Re Nudo rappresentavano un audace tentativo di coniugare elementi apparentemente inconciliabili: il pensiero marxista con quello libertario, le esperienze psichedeliche con la lotta di classe, il femminismo con i diritti delle minoranze. Era un crogiolo ideologico che rifletteva perfettamente lo spirito del tempo, confuso ma vitale, incoerente ma creativo. Le radio libere, che proprio in quel periodo emergevano con forza nel panorama mediatico italiano, erano l'espressione più autentica di quella realtà effervescente. Rappresentavano uno spazio di libertà d'espressione senza precedenti, una breccia nel monopolio dell'informazione, un megafono per voci fino ad allora silenziate. Radio Varese, emittente con cui sia io che Matteo collaboravamo attivamente, fu una delle prime e migliori radio libere italiane. Tra i suoi fondatori c'era anche il futuro ministro Roberto Maroni, all'epoca militante di spicco del movimento studentesco. Lui e altri esponenti del movimento frequentavano gli stessi locali dove ci ritrovavamo io e Matteo, luoghi di appassionate discussioni su politica, relazioni personali e progetti futuri. In quegli spazi di libertà e confronto muovevamo anche i nostri primi passi nel mondo della musica, appassionandoci al rock alternativo dell'epoca. I Jefferson Airplane con il loro sound psichedelico, i Grateful Dead con le loro jam session interminabili, Frank Zappa con il suo genio irriverente. Questi erano i nostri idoli, le colonne sonore delle nostre ribellioni. La musica rappresentava per noi molto più di un semplice intrattenimento. Era un linguaggio universale, un veicolo di idee rivoluzionarie, un modo per affermare la nostra identità. Attraverso le note dei nostri artisti preferiti, ci sentivamo parte di un movimento globale di contestazione e rinnovamento. Il nostro attivismo politico e culturale era intriso di idealismo e ingenuità. Credevamo sinceramente di poter cambiare il mondo con la forza delle nostre idee, con l'energia della nostra giovinezza, con la purezza delle nostre intenzioni. Non ci rendevamo conto dei limiti e delle contraddizioni delle nostre posizioni, della complessità dei problemi che pretendevamo di risolvere con formule semplicistiche. Nonostante questa ingenuità di fondo, c'era qualcosa di prezioso nel nostro impegno. la passione autentica, il rifiuto del conformismo, la ricerca instancabile di alternative ai modelli dominanti. Eravamo figli del nostro tempo, con tutti i pregi e i difetti della nostra generazione. La controcultura rappresentava un tentativo di creare spazi di libertà e sperimentazione in una società che percepivamo opprimente e autoritaria. Era una risposta imperfetta ma vitale al malessere che avvertivamo, una ricerca di significati alternativi in un mondo che ci sembrava privo di senso. Le nostre critiche al sistema educativo, per quanto ingenue e talvolta contraddittorie, contenevano elementi di verità che il tempo avrebbe in parte confermato. La scuola aveva effettivamente bisogno di rinnovarsi, di diventare più inclusiva e partecipativa, di aprirsi a nuove metodologie e contenuti. Con il senno di poi posso riconoscere che il nostro errore principale consisteva nel credere che la trasformazione potesse essere immediata e totale, nel sottovalutare la complessità del cambiamento sociale e istituzionale, nell'illuderci che bastasse la volontà per modificare strutture consolidate da anni. Eppure, nonostante tutti i suoi limiti, quel movimento di contestazione ha lasciato un'impronta indelebile nella società italiana, contribuendo a mettere in discussione gerarchie e valori che sembravano intoccabili, aprendo la strada a riforme che sarebbero arrivate nei decenni successivi, seminando idee che avrebbero germogliato nel tempo. Io e Matteo ci avvicinammo alla controcultura proprio grazie a Frank Zappa e alla sua musica trasgressiva e creativamente entusiasmante. Da tempo flirtavamo con quel mondo parallelo e surreale. Appassita la stagione dei cosiddetti figli dei fiori, emergeva prorompente nel mondo giovanile un nuovo fenomeno, la controcultura. Per noi che vivevamo in provincia e militavamo ancora nei partiti di sinistra tradizionali, Matteo in lotta continua, io nelle file della FIGC, questo rappresentò una vera ventata di aria nuova. All'inizio lo vedevamo con diffidenza, ci sembrava una voce puerile, folclorica e piccolo borghese della cultura giovanile. E poi la disinvoltura con cui quei ragazzi facevano uso di droghe non ci piaceva. Per noi, almeno fino ad allora, la politica era una cosa seria. Riunioni di sezione, volantinaggio, manifestazioni, programmi elettorali. Ad un certo punto, più o meno dopo Woodstock, dopo la fine della guerra in Vietnam, l'infame repressione della primavera di Praga ad opera dei carri armati sovietici, l'ingresso dei socialisti al governo a fianco della DC che tradì le nostre attese. Sia io che Matteo cominciammo ad averne abbastanza dei rituali della politica canonica. Condividevamo con i giovani della controcultura parecchie cose, in particolare l'antagonismo verso il sistema, l'antifascismo militante e una forte, viscerale passione per la musica rock, non condivisa e anzi avversata dalle masse operaie e dai dirigenti di partito. Poi venne il resto: la rivoluzione sessuale, il pacifismo, l'apertura alle minoranze, il femminismo, il ritorno alla vita rurale e l'ecologismo nascente, le comuni, la critica al consumismo e all'operaismo, l'anarchia, la riscoperta della musica popolare reinterpretata in chiave moderna, l'autogestione, le religioni alternative, le già citate radio libere, i jeans, i capelli lunghi, gli spinelli. Ma soprattutto il sesso creativo, Che c'entra il sesso in tutto questo, voi direte? C'entra e come? Senza più la costante minaccia di gravidanze indesiderate, la contraccezione trasformò radicalmente le dinamiche sociali, permettendo a uomini e donne una libertà molto più ampia nella scelta degli stili di vita sessuali al di fuori del matrimonio tradizionale. Dal 1968 in poi, la parola d'ordine divenne liberazione sessuale. Naturalmente, noi maschietti deviati avevamo esteso il concetto fino ad includere una radicale rottura con il passato e le sue regole e soprattutto una spericolata sperimentazione al limite della promiscuità. A Radio Varese, dove collaboravamo come volontari, c'era una ragazza, Enrica, che lavorava saltuariamente come annunciatrice. Aveva una bella voce e aveva fatto un corso di dizione. Inoltre, era molto bella e disinibita, o almeno queste erano le voci che circolavano negli ambienti della radio. A Legnano frequentavamo un bar chiamato Circolo Fratellanza e Pace, che assomigliava più ad un centro sociale che a un circolo culturale arci. Una sera ci trovammo lì per festeggiare il compleanno di Ornella, la ragazza del nostro chitarrista. C'era anche Enrica, splendida creatura dai riccioli biondi, occhi verdi, forme sinuose, jeans attillatissimi e sorriso ammaliante. Naturalmente, sia io che Matteo facemmo a gara per conquistarla. Lei non sembrava affatto infastidita dalle nostre attenzioni. Quella sera, Mimmo, che andava spesso a Milano per lavoro, ci parlò dell'imminente concerto del Parco Lambro, una sorta di Woodstock all'italiana, una grande festa del proletariato giovanile con musica, cultura e politica. Io e Matteo fummo subito entusiasti. Arnaldo suggerì di andarci in treno. Mimmo spiegò che si trattava di una 3 giorni, anzi 4. Il 4° giorno ci sarebbe stato una sorta di microfono aperto per chiunque avesse voluto esibirsi. Anche Enrica, con la sua splendida voce, fu entusiasta dell'idea e suggerì alla nostra band di presentare Melissa degli Allman Brothers, che era facile da cantare e musicalmente non troppo complessa. Il Festival del Parco Lambro era stato organizzato dalla rivista Re Nudo e si svolgeva sui prati dell'omonimo parco, un'estensione di quasi 1 chilometro quadrato, a nord-est del centro di Milano, in un'area verde circondata da faggi, robinie, querce e attraversata dal fiume Lambro. All'apertura dei concerti, il giovedì alle 13.30, erano presenti più di 4.000 persone, ma alla fine i giornali locali parlarono di 30-40.000 partecipanti. L'ingresso costava solo 1.000 lire e comprendeva anche un pasto. Nonostante la grande affluenza, il primo giorno non ci furono incidenti significativi, anche se i giornali riportarono 3 arresti per detenzione e spaccio di stupefacenti e 5 fermi per possesso di sostanze eccitanti. I concerti iniziarono la sera del 17 e si conclusero alle 4 del mattino del 21 giugno. Vi parteciparono 30.000 giovani, con picchi di 40.000 la sera dell'esibizione della PFM. Già il secondo giorno, le autorità disposero un servizio di sorveglianza di 200 tra carabinieri e agenti di pubblica sicurezza del nucleo antidroga. Fin dall'inizio, il festival si trasformò in un gigantesco happening spontaneo, dove 10.000 giovani, immersi in una splendida radura, stavano insieme, mangiando e vivendo in modo diverso. La musica nasceva qua e là, improvvisata da gruppi spontanei che con strumenti inverosimili, lattine, bongo, chitarre, flauti, bottiglie, creavano un'atmosfera fantastica. Ragazzi e ragazze ballavano seminudi al ritmo della musica improvvisata, probabilmente sotto l'effetto di qualche droga. Tra queste, anche Enrica, la più scatenata di tutte. Sembrava davvero di essere a Woodstock. All'ingresso vigilava un agguerrito servizio d'ordine, poiché l'eventualità di un intervento della polizia non poteva mai essere esclusa. Il sabato sera iniziò la musica vera e propria, su un palco di fortuna, con un'amplificazione arrangiata alla meglio. I primi a salire furono gli Stormy Six e altri gruppi acustici. Solo il venerdì pomeriggio, con l'arrivo di Franco Battiato e la sua potente amplificazione, iniziò il vero festival, con i 2000 watt promessi. Ci furono due concerti di Battiato, seguiti dagli Area, Venditti, i bravissimi Daedalus di Torino e infine, a notte fonda, il clou della serata, gli inglesi Atomic Rooster. Noi ci eravamo sistemati nelle tende. Ma mentre gli altri ragazzi avevano ognuno la propria compagna, gli unici a essere single eravamo io, Matteo, ed Enrica. Ufficialmente Matteo era ancora con Francesca, ma di fatto non facevano più coppia fissa e litigavano un giorno sì e l'altro pure. Matteo sembrava godersi questa libertà dove, con l'ausilio delle droghe, le relazioni diventavano molto più fluide, per così dire. Una notte, non vedendo tornare Enrica, io e Matteo iniziammo a preoccuparci, ma poi fummo sopraffatti dal sonno. Circa un'ora più tardi la vedemmo tornare, barcollando. Con nonchalance si infilò in mezzo a noi due e iniziò a fare le fusa e a toccarci. Nel giro di pochi minuti si avvinghiò ad entrambi. Per me e Matteo la festa cominciò proprio in quegli istanti. Il giorno dopo, il sabato, la festa raggiunse il suo apice con l'esibizione della PFM. Poi si avvicendarono sul palco circa 30 tra gruppi e solisti. Nomi celebri come Perigeo, Alan Sorrenti, Area, Alberto Camerini, Ricky Gianco, insieme ad altri già parzialmente affermati, Acqua Fragile, Stormy Six, Angelo Branduardi e molti ancora sconosciuti al grande pubblico. Da segnalare anche le apparizioni dell'innovativo gruppo Vetrovivo, del canzoniere del Lazio, del gruppo La Comune e soprattutto degli Arti e Mestieri, un sestetto torinese guidato dal batterista Furio Chirico, che strabiliò tutti con un assolo fenomenale. Furono presentati anche interessanti audiovisivi a cura del Comitato Vietnam e di Re Nudo. Non mancarono sperimentazioni coraggiose. Domenica pomeriggio ci fu un'ora di musica contemporanea proposta da Demetrio Stratos, Juan Hidalgo e Walter Marchetti davanti a quasi 20.000 spettatori. Sicuramente la parte peggiore del festival, una cacofonia insopportabile. La parte migliore, una strepitosa jam session tra componenti della Premiata, Pagani e Di Cioccio, del Volo, Radius e Tempera, e degli Area, Stratos, Capiozzo e Tavolazzi. Nel pomeriggio di domenica si esibirono anche gli Stormy Six, Claudio Rocchi, Lucio Dalla, Francesco De Gregori, Eugenio Finardi, Edoardo Bennato, Giorgio Gaber e gli Amondal, una fenomenale band tedesca, prog rock. Ma il festival fu segnato anche da seri problemi di ordine pubblico, con saccheggi e scontri interni al movimento. Gestire una massa così imponente di persone sarebbe stata impresa ardua per chiunque. La gente sembrava fuori controllo, nervosa e impaurita. Era evidente che all'interno del parco circolavano spacciatori di vario tipo, compresi alcuni venditori di eroina. Tra le prime a farne le spese fu Enrica, che proprio in quei giorni iniziò a farne uso. La sua esibizione della domenica sera fu largamente compromessa dalle sostanze assunte ore prima. Gli spazi per la politica e la cultura furono pochi. In compenso c'era molta confusione che favoriva gli spacciatori. Come denunciò il settimanale di Lotta Continua, il Comune di Milano, a guida democristiana, negò l'utilizzo di acqua ed elettricità, lasciando il festival senza servizi igienici. Per protesta, un gruppo di femministe mise in vendita baci a 1.000 lire. Lo stand del Fuori, Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano, venne distrutto e le femministe furono aggredite. La polizia intervenne con lacrimogeni. Gli spacciatori di eroina furono espulsi con processi popolari. Un camion frigorifero con 5.000 polli congelati fu assalito e i polli, ancora non scongelati, finirono nei fossi a marcire. Pioggia e afa trasformarono il parco prima in un pantano e poi in una sauna. Il comune aveva fatto prosciugare il lago all'interno del parco e non organizzò la raccolta dei rifiuti, nonostante i 3 milioni ricevuti dall'organizzazione. Andrea Valcarenghi, direttore di Renudo, a festival concluso, dichiarò: «Basta, questo è l'ultimo festival pop che organizzo. Se è questo che volevano, l'hanno ottenuto. Ne ho abbastanza di venire accusato di mettere a ferro e fuoco la città». Anche Lotta Continua fu criticata per un servizio d'ordine definito poliziesco. Con queste note amare si concluse la Woodstock italiana, un'esperienza con molti interrogativi e chiaroscuri. Nei giorni seguenti, Matteo, deluso da come Lotta Continua aveva gestito il servizio d'ordine e, più in generale, dall'ambiguità circa il ruolo che la lotta armata dovesse avere nell'agire politico del movimento, lasciò l'organizzazione. Lo incontrai a scuola durante l'intervallo. «Come va con Enrica?» mi chiese. «Va piuttosto bene», risposi. «Però è strana». «Lo credo bene. Tienila d'occhio. È una ragazza molto sensibile e vulnerabile. Quello che è accaduto al Parco Lambro lo dimostra chiaramente. Comunque stai tranquillo. È tutta per te». Io sono tornato con Francesca. Quella donna mi ha stregato. Fossi in te, starei ben attento a Enrica. Ho l'impressione che sia finita nel giro. Che giro? Quello dell'eroina. Non le hai visto i buchi nel braccio e nelle gambe? No, com'è possibile? Ne sono certo. Convincila a curarsi. Di quella roba si può morire. Matteo aveva ragione. Enrica si comportava in modo sempre più strano. Un pomeriggio di un freddo inverno del 1974, approfittando del fatto che mio padre, guardiano notturno, dormiva in cucina, dove la stufa era sempre accesa, la invitai a casa mia. Il pretesto fu mostrarle la mia nuova batteria, una Tama giapponese con 4 piatti, 6 tom e 2 casse. Nella mia cameretta c'era appena spazio per un letto e un tavolino per i libri e i pasti veloci. Dopo aver fatto l'amore, offrii a Enrica un tè. Mi alzai per andare in cucina, cercando di non svegliare mio padre che riposava sul divano letto. All'improvviso udii un rumore assordante. Enrica, alzatasi per andare in bagno, aveva urtato accidentalmente un piatto della batteria, innescando un effetto domino che fece cadere anche gli altri 3. Il rumore svegliò mio padre che, infuriato, irruppe nella cameretta, riempiendo di insulti Enrica. «E tu che ci fai qui? Va via! Puttana! Troia!» Lei raccolse in fretta le sue cose e scappò singhiozzando, senza nemmeno salutarmi. Da quel giorno non la vidi più.